Dialogo 34. Raccontò Abu Huraira: un giorno l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chiese: chi registrerà le mie parole per agire secondo gli insegnamenti in essa contenuti o per insegnarli a coloro che li metteranno in pratica? Risposi: io, o apostolo di Allah. Allora egli mi prese per mano e mi diede 5 insegnamenti dicendomi: sta lontano dalle cose proibite e sarai il più devoto degli uomini. Accetta con gratitudine ciò che Allah ti ha destinato e sarai il più contento degli uomini. Sii buono con i vicini e sarai un credente. Desidera per il tuo prossimo ciò che desideri per te stesso. Sarai musulmano e non ridere troppo, perché il troppo ridere uccide il cuore.